Un giorno un cristiano aveva là un 200 galline e le galline le fanno una greve di mettere su ovi di quelle 100%. Non fa più ovi di maniera neanche una. E il baron è già immaginato che 200 galline senza neanche un gal era lì il problema. E va in paese con la camionetta, arriva in agropecuaria e gli dice: l'ago 200 galline e non le mette su ovi. Mena a casa un gal che con qua che è un carioca di quei a capriccio. Un bel galcio, levantato, russo, ben mette sto. Carga su sto gal, paghelo, careto, ma porta a casa sto gal. Mola insieme ste galline. Lu, sbeccolea di qua, sbeccolea di là, sbeccolea di qua, sbeccolea di là. E niente, neanche abbado le galline tutte che gendì addosso, le si trova come le puttane. E niente ciò. Ciappa su sto gal, butti in cima a camionetta che porta due, che questo qua ho fin paura che è un boiola qua, capisci? Porta via sto gal, arriva là qua, ascolta qua, che viene pianta su un mestiere qua, tenete a te questo qua, dammi un gal! Va via in fondo, via in mezzo ai punari, e viene con un gal negro, una cresta da un palmo e mezzo, sporudo che mai, questo sì, l'è un paulista del sin signor. C'è un bel gal. Carga su da camionetta e via. Che? Mollo insieme le galline. Il fia solo così. Gli andai attorno le galline, torno le galline come per fargli il lavoro e non fava niente. Un schito sei che mai. Allora lui ga ben salga dita. Adesso sì, son ben fatto. Ciappa sto gal, buttelo insieme a sta camionetta e torna a dirgli: o vente me catti un gal e se no dammi in drivo i soldi. E gli ha detto così. Mi gonga uscigno qua. Medo, che ha detto. Piccinin, scantrio. Ma dei volte che non funziona. Ciappa sto galettin, poche speranze. E va a casa, c'ho per strada che pensa ben ciappa, continuo con ste galline senza uovini. Ciappa sto... Quasi che un garnisè che impianta una peada, lo trae dentro del punaro, sera porta. Il gas sentio una cantata che il sommelier Galvon Bueno. Venia pi e se gamme testo tusi e saltea neanche intera di in cima di uno al saltea in cima di che altre paia pareo e il vincea fa un matusel cioè, e curi in cima di uno in cima dell'altro e pincia di qua e pincia di là e pincia di qua e pincia di là e il venia pi le ga passare tre volte. E il paron del punaro, che dite adesso sono ben... E quando è aver la porta del punaro, sobe che salta in cima a lui, e fuori ciò comincia, pincia una vacca, pincia il cavallo, pincia di qua e pincia di là, le andai in cantina, pincia la macchina di far bigoli, pincia il sataron da casa, pincia la casa, la farina, pincia il sataron, salta in cima, pincia i copi, intanto che il gale si svenia, e che c'è per la camionetta. E le dà in paese, le dà un ginecologista e un veterinario insieme. E di quella desesperata, te le donne le robe che se salvesse. La vecchia poretta con la bengala, mia buona, salvarsi. E il pappagallo si impiantò le ali del cul. Non era Cristo di salvarsi. Quando lei tornò in Rio, era un silenzio assoluto. Tutti quanti erano sconti. Le vacche erano in tutte le grippi, i porchi erano quieti. E tutto quanto cito. E il gavardà, non sapeva più cosa fare. E il gavardà via del potrero. E il visto i corbi che andavano qua in là. E gli ha detto: tu si andiamo banda là, banda il potrero che mi permì il bisciolo e la via. Quando gli andai banda il potrero, l'era la destina intera. E lui che ha detto: il paron, chiamai al veterinario, al ginecologista, non ti preoccupare che il bisciolo se ga intrega. E lui pimpianetto con la letta che ha fatto: psh, sti chieti chi sono di utentiar quelle morenine lassù.